10. Ascolto, ma ti può dire Dio Maria? Sono la madre, ma di schifo. Non ci avevo fatto caso, forse perché stavano modulando quando l'ho detto. sottoalimentato, era sottoalimentato, è come se avesse la batteria scarica. È tutto un microfono, ma... Va benito, avanti. Sì, certo che ti sento. Buonasera anche a te. A voglia che ti sento. Sorry, latte fa bene, il latte te lo fa passare immediatamente, però se hai un forte bruciore di stomaco, se non ti prendi il malox ti rimane, ti fa passare nel momento, te lo blocca immediatamente, perché io lo so, perché ho sofferto, poi ho capito il perché. È perché non prendevo gastroprotettore quando prendevo le pastiglie, mi faceva questo effetto qua, ma bruciori da crepare, da stare male, non avevo mai sofferto di queste cose, ed erano le pastiglie, dopo che vado il gastroprotettore non ne ho più avuto. Sì, questo è un altro discorso, se ci sono le medicine magari che ti creano quel problema è già una cosa un po' diversa, ma se sono bruciori causati magari da una cattiva digestione, ok, a me sinceramente non fa passare subito, perlomeno tutte le volte che l'ho avuto mi è bastato prendere un bicchiere di latte, ma non un bicchiere nemmeno molto grande, un bicchiere piccolo anche, eppure ha funzionato, poi non so se con le altre persone la stessa cosa, non lo so, io non mangio comunque cose piccanti, non bevo roba alcolica, tutte queste belle cose qua, sarà pure per quello, non te lo so dire già, so solo che a me mi fa bene, per me funziona, perlomeno sino a lui è sempre stato così. Avanti Gianmarì. Okay. Sono tante cose che fanno bene, ma bisogna anche vedere com'è la persona. Se ho preso il latte, in quei casi non lo faccio prendere. Quindi che io preferisco o la magnesia, oppure mi va appena di acqua vite, mi appena appena, e mi passa subito il bruciore di stomaco. Ma appena mi. Ma poi gli altri non lo so. Sono tanti casi, capito? Ok, bene, io mi assopito, dai, che la signorina qua non sente niente, la televisione ci chiede, parlo io, la televisione non la sente, allora mi ha detto a smetterla, cioè, anche tanto, per cui la approfitto. Io vi ringrazio per la chiacchieratina, buon proseguimento di serata, Giulio, Gianni, Graziano e Marco, vai. Ripeti tu Marco e fai girare, io chiudo, vai. Grazie a cacchio la tira tutti e tre. Un attimo. Ok, ciao Gianmarì, sono io che ringrazio te per la chiacchierata, dai, salutoni in casa e speriamo che domani ti senti bene, benissimo, anzi di venire di incontrarci magari su nella piazzetta, così scambiamo anche quattro chiacchiere insieme, ci possiamo prendere anche un caffè insieme oltretutto, così almeno è un piacere per me rincontrarci. Ok, avanti Gianni per Gianmarì a K che sta chiudendo. Ciao Gianmaria, grazie per il questo buona serata, buon continuo di serata, dai. Ci sentiamo. Avanti a chi tocca. Ciao Gianmaria, alla prossima e buon proseguimento di serata, salutoni in casa. Ciao, io ne approfitto a chiudere Giulio, Gianni, perché qua è arrivata l'ora fatale. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao Grazia, grazie anche a te per il questo, dai, ci sentiamo eventualmente domani. Ok, ma c'era poc'anzi qualcuno che probabilmente voleva entrare, ma non ho capito bene a dire la verità. Io lascio tre secondi di bianco per vedere se è possibile contattare l'amico che forse voleva entrare, non so se ho capito male io. Avanti, chi era quello che voleva entrare su questo canale? Ah, deve essere allora qualche straniero, non lo capisco. Ha detto Missico poco fa, però se è vero non lo so, mi sembra un po' strano. Boh, è può darsi, perché in Messico praticamente ci sono arrivato, sulle coste del Messico, esattamente del Golfo del Messico, sì, sono arrivato lì, in Florida, esattamente nella città di Tampas. Anche, ed era proprio una giornata come può essere oggi, una grande giornata, vediamo un po', facciamo chiamate se è possibile, attenzione Messico, se ascolti l'Italia, non so se riesci ad ascoltare, ma sarà difficile, lasciamo un attimo di bianco e vediamo. Attenzione Messico, se ascolti Italia, Nord Sardegna che chiama, sta rispondendo. Te l'ho detto, è facile, sì, glielo ho già, non è un problema, lo ripeto, ci affacciamo. È tanto vero, così per curiosità, guardate al computer, la cartina, eccetera, è il risultato che si risulta. Io avevo collegato questo della città di Tampas, praticamente fuori l'America, in poche parole, dai. Vabbè, comunque. Attenzione, Messico, si ascolti in Italia? Sì, ma non capisco quello che dice già. Cappa, attenzione Messico, l'operatore Delta Romeo della città di Sassari, nord Sardegna, Italia, che ti super cordializza. 7351, mio hermano. Si sente che parla, ma non si dico, ma prende nulla. È troppo basso, non si capisce quello che sta dicendo. Poi non sto parlando nemmeno una lingua molto chiara. Vabbè, lasciamo a conto suo. Avanti Marco. Io non ho mai avuto problemi ad ascoltarti, quindi non c'è problema per me. È Giulio poi lo stesso, sicuramente. No, non c'è nessun problema, Marco, ti abbiamo ascoltato anche prima. Comunque in ogni caso ha risposto sia a me che a Giulio. Probabilmente ci ha sentito, perché dopo che l'abbiamo chiamato ci ha risposto. Però è un bel strano che non si riesca a capire cosa dice. Non so manco che tipo di lingua parla nel Messico. Spagnolo? Atento, mio hermano del Messico, se vai a scusare l'isola della Sardinia, Sardinia Italia che va chiamando. Adelante, mio hermano. Adesso proprio nulla. Adesso è scesa la propagazione, sì, adesso è scesa del tutto, sì. Sì, no, Marco, non ho nessuna difficoltà nell'ascoltarti, ti ascolta molto bene. Non ti ho perduto per niente in tutti questi passaggi che hai fatto, dunque, va benissimo così. Dimmi piuttosto, cosa stai usando, l'antenna con la base magnetica oppure l'antenna fissa? Un messicano ed è ad Almeria, a sud della Spagna. Ah, ok, ciao Claudio, ci siamo riempiti in poc'anzi. Ok, no, e qui non si capiva molto bene, la verità, no? Anche perché la lingua bisogna conoscerla tante volte, ci mancherebbe. Ok, avanti, Marco, ti ho fatto l'interrogativo. Antenna 1,60 m, però suppongo che sia la PLC 800, perché anch'io ce l'ho una così, però non ho la base magnetica, è solo l'antenna, e la PLC 800 è a quella lunghezza lì. Va bene, il michelino a Claudio, avanti Claudio. Ehi, buonasera a tutti. No, vabbè, io lo ricevo abbastanza forte. È un messicano, praticamente si trova ad Almeria. Almeria è un paesino a sud della Spagna, quindi praticamente non è molto distante da noi, capito? E credo che sia anche imbarato mobile, quanto stava dicendo, quello che lo sentite un po' confuso. Io direttivo riesco a sentirlo molto bene. Buonasera a tutti, comunque. Ecco il tuo canale 2, il canale della tristezza. Io mi sono fermato dove ho trovato questo, perché poc'anzi, quando ci siamo sentiti per un attimo sul canale 5, io ero praticamente lì su, perché c'era precedentemente a te, c'era Gianni e anche Luca, ma Luca aveva problemi, aveva di microfono soprattutto, non so che cosa era successo, e dunque poi Gianni non c'era più, però io ero sempre in ascolto lì, e nel frattempo è entrato Luca, gli ho dato controllo che il microfono andava molto bene perché aveva sistemato, e poi per un attimo si è entrato tu. Allora, ero rimasto da solo dopo che sei andato via tu, e io ho fatto là, ho trovato questo qua, mi sono bloccato, capito, tutto lì. Avanti Gianni per Claudio. Ciao Claudio, buonasera. Ha svolto di tutto quanto, spinotto, cose, poi dall'alimentatore praticamente era troppo basso, come ha rialzato il voltaggio dell'alimentatore non l'ha più fatto, è come se fosse sottoalimentato, cioè era sottoalimentato probabilmente. Beh, il microfono a tavolo, se gli alimenti se hanno per voi, se li danno per voi, se ne dai 7, come parli vai in rientro e ti fischia, non si intende nulla. Ok, ciao anche a Marco, ciao a te Gianni e a tutti quelli che siete qua. Sì, sì, no, stavo ascoltando poco fa, poi ho visto che siete spostati, poi ho seguito un po'. Adesso ho riacceso, il DAC è sempre acceso, ho sollevato il volume, ho visto si muoveva la cosa smitta e gli tengo meno. Va bene, comunque, domenica è passata e domani si rinizia tra barco. Vabbè, io ho già navigato brutta mani, quindi non cambia niente per me. Non è possibile che si debba sfruttare il personale in questo modo, ma comunque è meglio che il lavoro ci sia, almeno quello che ci permette di salvarci e di sopravvivere da tutte le intemperie politiche che sentiamo in questo ultimo periodo e da tutte le intemperie di crisi, per carità, è meglio così. Te volevo dire, non so se tu l'avrai visto il DAC che ha Claudio, ma è di una meraviglia spettacolare, già. Il DAC, io volevo, conosco il DAC. Quel DAC che c'è a Claudio, io l'ho visto quando è arrivato a Valter, l'ha scartato davanti a me. E c'aveva quel difetto praticamente della manopola, mi ha detto se lo volevo, e non ho voluto perché sono un po' pignolo, dico la verità. Poi è passato a Daniele e Daniele è andato a Claudio, quindi lo conosco benissimo, ho visto anche quello che c'è a Valter, che è proprio lucido, perfetto. Anche quello di Claudio era bello, a parte questa cosa che aveva, lui l'ha messa apposta, adesso va bene. Sì, sì, lo conosco e conosco tutta la sua storia. Aspetta, ma è uno spettacolo quello a Parigi, è straordinariamente bello, capo. Bello. Devo dire una cosa, addirittura, sono pure un po' stupido, ma come figura, guarda, se ne frega di un apparato professionale come figura, naturalmente, poi il resto, il contenuto è un altro, cioè indubbiamente, ma come figura, guarda, come estetica, se ne frega di un apparato professionale, questo lo perlomeno per i miei gusti. Discorso naturalmente assurdo da fare, comunque, perché un apparato professionale è chiaro che vale di più, no? È più importante, però come estetica, guarda, è strano, veramente bello. Ok, adesso ho svelato il tuo segreto, ho svelato la frequenza, mi perdonerai. Avanti Marco. Scatta, sono arrivato alle punti, alla stessa lì. Guarda il segnale, Giulio, giù, com'è? Marco, com'è? Caspita, si è a fondo scala qua, quasi. E dunque, si è a 30, sì che ti puoi immaginare, meglio di così, vorrei vedere. Va bene Marco, non ci sono problemi, riprendi e fai girare, vai. Va bene, volevo chiedervi se avete sentito Luca del Monte. Sì, poco fa, era su 10, adesso stava facendo roba, non so se sia ancora acceso su 10. No, già l'abbiamo sentito. Mi ha mandato un'email, vabbè, per una conversazione, se lo sento, vabbè, lo contatto. Prova su 10 a vedere se c'è Marco. Chiamalo su 10 a vedere. Ok, riprendi qua. Sì, se mi svegliare, non lo so, io non ho niente da nascondere, ho no, poi Gianni già la conosce, sta bene. Sì, no, l'ho messa nuova, la manopola, tutto il potenziamento nuovo, di un'altra che ne aveva Walter in disuso, capito? E quindi gli ho messo tutto il potenziamento nuovo, compresa la manopola, adesso è perfetto. Nuovo, le lampadine tutte nuove le ho messe, tutto qua, per il resto già funziona, come M500 già rulla, poi già non tengo le eccezioni, lo tengo sempre acceso per magari quando mi sento a fare due chiacchiere, in modo che sia bello, sempre caldo, con lo stadio finale, sempre bello fresco. Marco, sei da quando sei partito? sì, sempre 5-9, qua non cambia niente segnato. Vuol dire funziona tutto bene il tuo impianto, nessun problema da parte mia, io vi ascolto sempre bene. Poi adesso vediamo settimana se riesco a avere qualche turno di riposo e mi sono attento. Io ho fatto ieri anche stamattina. Caro Giulio, vabbè, non dovevo fare niente perché sono arrivato a Trinità d'Agurto, ho trovato problemi, quindi mi sono fermato a parlare con un altro collega, qui e là si è fatta l'una. Infatti sono arrivato un po' tardi, c'è ragazzi mia figlia a pranzo e come al solito sono sempre l'ultimo. Infatti non ho fatto stasera la macchina, no, ma fortunatamente ho piovuto, quei giorni della sporca pure, ma non mi abbiate la macchina brutta, tutto qua. Avanti Gianni. Esci da me. L'ho tutta quanta lavata, le ho fatto mettere un, diciamo, un antibatteriologico, eccetera, eccetera, all'interno tutto profumato, l'ho fatta fare tutta bene, tra l'altro giorno. Poi adesso si è messo di nuovo a piovere, buonanotte, però quando ha fatto quel vento, la tutta sporcata di terra, di gozzo, si labile e luci. Adesso aspetto un po' prima di lavorare, quando fa bel tempo, che mette buono nel tempo, allora la lavo. E vabbè, comunque dentro è sempre pulita e profumata. Ma ne sono accorto. Vero Marco? E tu fumi per interesse, di la verità, Marco, stai attento perché Gianni è furbo, lui già lo sa lui perché la profuma la macchina all'interno. Lui, e anch'io ieri mattina l'ho lavata, no? Poi ieri sera sono scese un paio di gocce e me la tutta quanta aveva macchioline. Ma è porca miseria, ma è una cosa incredibile, ragazzi. Io ieri mattina, quando sono salito un po' prima di andare all'ufficio postale per tirare la pensione, sono passato lì a Bretagneta, gli ho dato una bella spazzolata, bella, lucida, brillante. Poi ieri sera, quattro gocce e mi ha fregato, pazienza. E cosa ci vuoi fare? Contro il tempo non ci possiamo certamente mettersi a combatterlo. Il tempo fa quello che vuole. Ci mancherebbe. Va bene, dai. Avanti Marcolì. Sì, è profumata, era tutta profumata. Sembrava una macchina da signorine. Però tutto quello lo fa di nascosto della moglie, mio, non ti credere che lui si espone tanto, no? Lui esce, spende, si ferma da qualche parte e incomincia a profumare dentro. E allora poi già lo sa lui per quale motivo lo fa, capito Marco? E per come fare l'intimi, ai? Sì, e dimmi che non è vero, dimmi che non ho ragione, mi. Stavo se scherza già. Avanti il cra. Poi tutti come me dovevano essere. Sì, vabbè. Sì, facciamo girare anche un po' questa. E sì, vabbè, cosa ci vuoi fare? Questa vuoi dire? No, io sono assorso rientrando, due minuti c'era pure il vapore. È bianca, ci bisogna anche asciugarla quando l'ha passata lì, il vapor, prima con perché c'è il detersivo anche, capito? C'è due vaschette, una detersivo e una sciacqua. E basta, mentre pulita, giusto per togliere quella sporcizia della strada, delle strisciate che si vede, anche se gli altri, infatti ne ben poco. Ho visto una rossa come quella che c'avevo io, per carità di Dio, dietro le patate ci sono cresciute dentro, da vergogna proprio, fuori, non so cos'è, gialla, celeste, allucinante, che schifo, per carità. Purtroppo è così. No, io sinceramente anch'io ci tengo, anche perché la macchina è ancora nuova, pensate che non ha nemmeno 20.000 km ancora, ci mancano mi sembra 200-300 km per raggiungere i 20.000 km, perché nonostante che ce l'ho 4 anni che l'ho anche revisionata per la prima volta in giugno di quest'anno, se che ti puoi immaginare, dunque se non me la tengo bene sarebbe anche un peccato, no? Perché non è che uno si può comprare la ci mancherebbe. Volevo, no, ma se mi è venuto in mente già, quando ero giovanotto, diciamo, avevo un famoso 1100D, grigio tocco, un bel grigio, era veramente, era una bella macchina allora. E la sera quando andavo a trovare gli amici, solitamente ci facevamo una passeggiata, però io precedentemente al ritrovo degli amici andavo sempre con una ragazza, andavo, no? E questi amici miei, capita, sembrava fatta apposta, siccome avevano dei sedili di pelle e dunque si vedeva qualsiasi cosa. E dice, ma tutti quanti questi peli che ci sono su questa macchina, Ricci? E te, perché stiamo spazzolando una ragazza già? Luciano, tu hanno una vita alla macchina, ma io la compravo tutta macchioline, tutte queste cose. Ma esatto, ma questa frase era diventata, guarda, era diventata praticamente una abitudine tutte le volte che si sedevano, perché ero uno dei pochi che aveva la macchina della Grefa, no? E allora loro cosa che facevano? Secondo la dire, perché io facevo? Lasciavo la donna e incontravo loro, no? E dunque ti puoi immaginare il bambù che mi tocca sedermi su questa sedile. Ma la macchina era pulita, sinceramente, perché io ho sempre tenuto bene. Ma voglio dire, loro guarda, dopo, erano riusciti a individuare tutti questi peluti. Guarda, stavo spazzolando la ragazza, gli ho detto, per quello, niente di male. Marco, mi chiamano. Avanti Marco. Ti ho sentito molto in questi giorni qua. Non ho capito bene la battuta. Vabbè, dopo te la ripeto quando sarai alla stazione fissa. Cosa dovevo fare secondo te qua? In quei casi lì cosa dovevo fare? Quanto rapporto dice a 12 volte di comparare? No, 19 di andare. Infatti se vogliamo lo fa, certo. Vabbè, io mi ricordo aveva una tappezzeria rossa, aveva questo 1100, era bello, mi è rimasto nel cuore quella macchina lì. Aveva il comando delle marce, ce l'aveva lì allo stesso, no? Capito già, il famoso 1100D, un trattore, aveva una forza, cioè, tremenda, ma per succhiare, e poco succhiavami, non più di 8 litri, capito già. Conosco il 1100, ma avevo una carrozzeria un bel grossa e bella pesante come macchina. Sì, ne ho conosciuto tante di quelle macchine, ne ho conosciuto il 1100, il 1500, la Dufin. Te la ricordi la Dufin? Caspita, se me la ricordo, no? Cioè, ce l'avevo mio amico, la Dufin ce l'aveva, certo. No, il 1100 era tra l'altro, la mia prima macchina era, no, già. Pensa che l'ho tenuta 16 anni, l'ho portata al Ferro Vecchio, lì da Albano, allora c'era Via Grazia Reda, c'era Albano, no? Come Ferro Vecchio, e gliel'ho portata in marcia, e non ero disfatto, perché mi ero talmente stancato, però la macchina andava benissimo, funzionava benissimo. E poi quando avevo preso il 124, avevo il 124 più larga, più faziosa, però beh, la macchina anche quella, però devo dire che mi piaceva di più il 1100, chissà perché, cioè il 124 era troppo leggera dietro, era, se poco poco accelerarvi, sentivi una certa leggerezza dietro, non era una macchina molto stabile secondo me, anche se io sinceramente andavo sempre piano e ho sempre camminato piano, però e quando è capitato qualche volta di tirarla mi aveva dato quella sensazione, capito già? Sì, ho conosciuto l'Anglia, la Fulvia, la Ford Capica, tutte quelle macchine le ho tutte conosciute io. Ci ho anche seduto perché la Ford Capica ce l'aveva un amico di famiglia. La Fulvia era del padre di mio cognato e mi sono seduto. La Flavia, cioè non la Fulvia, la Flavia, scusi, quella che aveva quattro sportivi, due controverti e due normali. Erano macchinoni, però allora Sì, era un po' di... No, mi ha brutto, l'ha detto, che più su di Giulio Muritto aveva il laboratorio lì e abitava, dicevi, lui ce l'aveva il portone di provincia quando aprivo la macchina, tutta spalancata, tutta la fiancata spalancata, era una bella macchina veramente. Giuseppe Carlotta sarebbe quella persona che solitamente vediamo in giro, aveva una Jeep inglese di quel De Masso Lunti, che con una radio straordinaria, che poi questa radio era praticamente una radio trasmittente, le stazioni, anche gli animatori, e con Sassi e l'aveva filmata. E da un anno si trova, usava l'altro microfono, capito? Però gli aveva sequestrato la polizia, il microfono, per lui ne era più. Babbo nel 60, prima di morire, aveva la Giulietta e mamma aveva la Bianchina, quella con le macchine erano favolose, e alcuni parenti, infatti di Babbo erano 1100, avevano la Francia Flavia, qualcuno aveva addirittura qualcosa di più grosso. Ce n'è uno lì ai punti, non so se lo conosci, cosa, dove c'è il bar, dove c'è la Sisa, via, la via che poi va a Montetignoso, quella lunga, se non mi ricordo, c'è una lancia Fulvia, coupé, se guai a toccargliela, colore granato mi pare. Ho capito, dietro la chiesa, la via della chiesa, che fiancheggia la chiesa, diventa lunga, fino a Montetignoso, con la strada lì stai dicendo. Esatto. Prima di quel bar c'è una lancia Fulvia, non ti vedi come la tiene. Vai a toccare, erano i cerchi in lega, tutta interna in pelle, potrebbe essere il modello originale. Ma io un sacco di volte ne avevamo detto nel caffè quando facevo su di stato in Coreale, la mattina al giorno gli ho detto, perché si prende una macchina? No. Questa va come le altre, va meglio delle altre e non è a tasso vero. I soldi rimangono in tasca perché cioè, sono iscritto al club, quello appunto delle macchine d'epoca, quindi l'assicurazione pago un bar di 100 euro, bollo non è bar, non paga nulla, e dice guarda, va bene alla grande, meglio delle macchine nuove a vita. Sì, la Giulietta ce l'ha un mio amico, ce l'ha già di fronte alla macelleria che c'era una volta in Gazzareda, di fronte a Deida, dove era Deida prima, c'era un macellaio che vendeva carne di cavallo, vendeva, no? Poi quell'uomo la sua macchina l'aveva data al genero, è morto da tanti anni quell'uomo, e questa macchina esiste ancora sempre, ce l'ha il genero, tutta quanta ben messa a posto, pensa che allora, anni fa, aveva speso 4 milioni solo per verniciarla e metterla a posto tutte le cose che c'era, e lui non la usa mai, la mette solo in moto perché ce l'ha dentro il garage, ce l'ha e la mette solo in moto, e lui ha una Y, l'ultima che è uscita come macchina sua, però ha sempre questa Giulietta conservata, ma se tu la vedi è brillante veramente, è una macchina come quella, ce l'aveva una volta anche il padre di Mario Rubin, il vecchio CB, ce l'aveva, però quella era un po' più vecchiotta, però era sempre messa in ordine, che quella era una bella macchina, ma quella la usava comunque il padre ogni tanto, e qualche volta anche Mario faceva il pilota con quella macchina, e da sempre il padre si arrabbiava sempre quando lui la fregava per modo da dire, chiaramente, no? Capito già? Ehi, torniamo un attimino al tappezziere, ma chi è quello che c'ha anche il BMW, la moto? Bravo, proprio lui, perché era appassionatissimo di da motore, tipo moto pesante, eccetera, quello è BMW 1000, sì, è il padrone, e ha il coso, anche la come si chiama, la Jeep, però adesso ha quella Jeep italiana, prima avevo quella inglese, io parlo di diversi anni fa, adesso ha quella più piccola italiana, e poi ha una R4 scappottabile, io non avevo mai visto nessuno, lui ha questa R4 e si è fatto tutto il fettuccio, siccome lui è tappezziere, no? Si è dato tutto quanto messo a posto, ma è una passione moltissimo di motori, ma di moto siamo a roba di 4-5 in moto grosse, ha anche una Guzzi di quelle che una volta avevano i vigili urbani a Sassari, che facevano servizio, una di quelle moto così, proprio moto comprata proprio dai vigili, eccetera, Vittorio. Allora io ti dico una cosa, quello lì è il genero di un'amica, praticamente di un'amica di mia madre, che abitava in via Nunzio Cirri a Piano Terra, quasi nell'angolo lì. Figurati se non la conosco, io ho conosciuto la mamma, ho conosciuto la moglie che è bionda. Ho conosciuto il fratello che esce carabiniere, ti conosco tutto. Fratello, il figlio che è carabiniere, sì, è vero, poi l'altro fratello ha fatto l'ambulante, e poi la moglie è quella bionda che stai dicendo tu, era un'ex commessa che lavorava a Lupin, ha lavorato tantissimi anni a Lupin, però adesso è in pensione da tantissimi anni, è proprio quello, Giuseppe Lallotta, lo conosco in tanti a Sassari, no, non è un problema, una bravissima persona, non ci sono lui. Io un giorno sono andato da lui, abita alla fine di via Baldella, proprio dove finisce la strada, alla fine, e lì ha addirittura un piccolo mulino, tanto è vero, lui abita lì in quella campagna, si raccoglie le olive e si fa anche l'olio, si fa, perché ha questo piccolo mulino che si aveva comprato, è un appassionato di queste cose, capito Giacomo? Fai girare per Claudio poi, dai. Ehi, io ho capito che li conosco tutti, Esther si chiama la moglie. Bravo, esattamente, proprio lui. Avanti qua. Ehi, sì, ho capito chi è. C'è qualcuno sotto che vuole entrare, non so se sono sclatte, da qualche canale vicino. Avanti che vuole entrare. Stavo parlando già, mi sento qualcuno sotto, non ho capito chi è. No, se vuole entrare, siamo qua. Sì, ho capito. Beh, la R4 Cabrio, io l'ho conosciuta, ce l'aveva un imprenditore di Santa Teresa di Galluga, era rossa col tetto nero, che praticamente si manuale, si avvolgeva come la DNC, no? Uguale alla DNC, si staccavano i cosi e si avvolgeva e si portava dietro. Sì, è così anche quella. Sì, è grande, è più grande di lei, di almeno, io dico che vicino agli 80, ne avrà che so io 77-78, è molto più grande di lei di età. Ma è una bravissima persona, poi con l'età che hanno li dimostra, e anche perché rimane una persona molto giovanile, così, e devo dire che un'ottima persona, in gamba, è una persona molto educata, la verità. Io lo conosco da almeno 50 anni e devo dire che non gli trovo nessun difetto, sia di educazione che come serietà di uomo, eccetera. No, assolutamente, è in gamba, veramente. L'ultima volta che l'ho incontrato, sempre da quelle parti dove abita lui, un attimino che questi qui mi stanno chiamando da giù, sicuramente. Le prendi già il telefono. Invece volevo chiederti una cosa, ma visto che sto andando via, c'è quello che c'ha la Fulvia, la Lancia Fulvia HF integrale, penso di sia, o è fatta tipo un integrale, che solitamente vede via Baldella in riba, quello lì è stato un CB, però non mi ricordo chi sia, questo lo conosco perché lo conosco da tantissimi anni, però non mi ricordo chi è. Scusate, dai, rientro, ma vi devo lasciare perché mi hanno chiamato da giù per la telefonata addirittura per la cena, dai. Ok, vi ringrazio per la chiacchierata, è stata una bella chiacchierata, dai. Ciao Gianni, ciao Claudio, ciao Toni, ciao Marco, non so se ci sia ancora all'ascolto, alle prossime, dai, ascolto il finalino e poi chiudo, vai qua. Dico cosa stai dicendo a Giulio già? Ho detto che c'è un CB che io conosco di tantissimi anni fa, che ha la Lancia HF e si ferma sempre in via Baldella vicino all'edicola. È una persona che io conosco da tantissimi anni, però non mi ricordo come si chiami, che nominativo c'ha. Tu lo te lo ricordi Giulio? Poi ti saluto, così ti faccio andare via. È di quello che ti volevo raccontare, è Angelo Michel, quello lì, quella macchina lì, lui, io l'ho vista da poco, io gli ho fatto un lavoro a casa sua, che tra l'altro abita dalle prove, abita la lotta, sempre in quelle campagne lì, per pezzo, tutta quanta. Se potete guardare tutte le parti più usurate del nuovo dall'Inghilterra, un sacco di soldi ha speso. L'ha rimessa a posto e ha fatto un gioiello di macchina, sì, quella macchina rossa, sì, sì, sì. E tanto è vero che l'ho ottato, che un giorno l'ho incontrato lì a casa di Angelo Misce, l'ho incontrato e perché gli aveva fatto lui tutta la tappezzeria interna. Capito? Già. Riprendi, dai. Ascolto, fino a lì poi chiudo. Ok, ciao ancora a tutti quanti. Riprendi. Ciao Giulio, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata e buon continuo serata, buona carica. Avanti Claudio. Yeah, ciao Giulio, sì, sì, quello infatti è Angelo Misce. C'è anche una mini minor verde, mi pare, di vecchia generazione. Qui c'è quella cacca integrale, no, è la cacca integrale quella. Ti accorgi perché c'è due marmite, una al lato e una all'altro. Quella cacca integrale, integrale rossa, della gran bella macchina. Va bene, ciao Giulio, alla prossima, buona cena e sempre forza Juventus. Ok, ciao, sì è vero, ha anche una minimino, ha una integrale, poi ha anche una Panda, e anche lui è un grande appassionato di macchina, e tra l'altro fa anche il giudice di gare automobilistiche, tutorelli, eccetera, eccetera. Ok, con quest'ultima battuta vi saluto ancora una volta e ci rivediamo. Tutti e grazie per il questo, ciao. Ciao, ciao, ci sentiamo più. E me lo ricordo bene, io me lo ricordo perché veniva anche nel Radio Club Nord Sardegna, via Luzzatti, quando c'era Radio Club a Sassari. Io ero piccolo, avrò avuto 14 o 15 anni quando frequentavo lì, 16 anni, però me lo ricordo bene, anche perché c'ha avuto sempre un segno, dai, usava molto il rima. Continuano a usare, persona che ci tiene molto, va anche a correre, ci tiene anche molto in forma, se lo vedi va anche a correre, trovo spesso che tra i segni non è sole, vedo un la mattina presto, saluto che tra i segni, sì, Angelo Misce, c'è una bella macchina, una bellissima macchina, sì, fa commissario di percorso nelle manifestazioni dell'ACI, insomma, collabora con l'ACI, ho trovato un po' di volte quando facevamo le manifestazioni di assistenza per l'ACI. Vabbè, cercherei di giocare, domani sera riposi così, io ne ho voglia di fermarmi per qualche settimana, no? Anche 4-5 giorni, tutti continui, a starmi a casa, tutti a riposarmi, a non viaggiare più, cazzo, faccio questi rapisti. E a chi lo dici? E domani a riposo, devo andare in banca perché il 10 mi scade la carta, e devo rinnovarla e quindi devo andare in banca. E mi devo muovere presto perché se no... Se mi scade poi me ne dimentico, un casino, già una volta mi è successo che ce l'avevo scaduta, non me ne ero accorto e la verità non avevo soldi in tasca e praticamente ho dovuto lasciare la carta d'identità, li ho portati subito i soldi, sono andato da mia sorella, me li ho fatti dare e li ho portati e poi li ho ritornati da sera a mia sorella, ma per dire, fai figuraccela. Mamma mia, poi non vai di aria, quando lei la carta la passa, non è attiva, cioè, non figura. Ma che scade, ma cos'è il banco, ma la carta di credito scade, no? Certo, la carta di credito che è il banco, ma tutti e due, c'è una scadenza, non la vedi mai la data che c'hanno davanti? Non lo guardo mai, già, dice tutti e due, ma non lo guardo mai. Non lo guardo assolutamente mai, io uso molto, moltissimo, perché non uso proprio pochi soldi, 20, 30, 40 euro che mi intaccano di più, ma quando sono fuori, domani non rientro a pranzo, provo con la carta, no, ci rimane, ci faccio cadere quando scade, prima facciamo video di cose brutte io. Vabbè, era tra l'altro una mia ex collega, capito, era il rifornitore della Conad, era una Dio. Dopo 10 minuti sono andato e gli ho provato i soldi. E dopo che cosa erano 12 euro di benzina della moto, che non è che erano niente di... Solo lo sai che cosa è successo? Che avevo comprato roba, io i liquidi ce li avevo, ho comprato roba e ho comprato pesce. E quindi avevo speso quelle poche 20 euro che ci avevo, me le avevo spese, se no l'avrei pagata tranquillamente. E niente, vabbè, comunque si è risolto tutto, l'ho acquisto, mi ha ritrovato la carta d'identità, ha strappato tutto e via. Ma per dirti, fai figuraccia se non te ne accorgi. Che volte avanti? Buonasera H2, come sei così basso? No, sei tutto sciatto. Allora, ma... Ui, ma cocotto. Segnale. Cosa? All'anima del segnale è passato da Santiago 2 a Santiago tipo 9.10, 9.15. Il tuo qua che ce l'ho davanti, è a muro, ci arrivano da 40. Oh, vediamo un pochino se riusciamo a fare qualche regolazione. Gianni, ma stai usando quella radio che mi hai detto? Quella che mi hai detto stai usando la radio? Io sono tutto. Non si ottanta, deve abbassare la potenza. Guarda quello slider che c'è, dove c'è scritto power, toccalo col dittino, mandalo indietro perché sei tutto saturo. No, non quello del Mickey Game, non dove c'è scritto Mickey, dove c'è scritto PWR, PWR. Faccia 6.80. Siamo 140 con la scheda di 6 metri. L'hai abbassato troppo Gianni, devi toccarlo un pelino, la rottura di palle di queste radio sono quelle lì. Se uno non si è abituato è un casino. Un pelino avanti mandalo, ma un pelino. È buttato. Adesso va meglio Gianni, buonasera. Ok, peggio. Sì, adesso come potenza va bene, non sei stato, la radio è buona. Il processore inserito, metti dove c'è scritto approach dentro, e il mic, dove c'è scritto mic, l'altra radio che c'hai sotto il power, mettilo al massimo. Sì, al massimo. Oh, cazzo, finalmente ti sentiamo. Adesso ti posso dire buonasera Gianni KP2. Avanti Gianni W. Buonasera KP2. KP2. Mi hai sentito? Dopo tanto. Buonasera a voi amici. Out in, quindi lo devi tenere in posizione in, specie, a parte, cioè, due interruttori, uno che è il PTT normale, ok? Il PTT manuale, chiamalo come vuoi. L'altro, cioè, un altro interruttore dove c'hai i kilohm, c'è 500 kilohm, 50 kilohm. Come ce l'hai tu, a 500 o a 50? No, no, no, tiralo su, mettilo a 500, portalo su quel tartino. Beh, vedi che spinge di più. Poi sotto, solleva il microfono, guarda se è in posizione in o out, se quell'altro, l'elvetta che c'hai sotto, è in posizione in, avanti. Bellissima radio, ok. Lascialo a 50 kHz in posizione in. Lo driver del Mickey Gay lascialo al massimo, perché si 80 c'è una regolazione diversa dalla tre conversioni rispetto alla, al 140 che è due conversioni, perché quello c'è la scheda di 6 metri. Lascialo così. Poi la potenza quando è caldo, ti consiglio di regolartelo a caldo, come sempre consigliato a tutti per i 140, per i 80, che sono quelli a slider, certo? Potenziometro, te lo metti a Santiago 7-8, il tuo riferimento è il segnale 7-8, ok, Santiago proprio, è più preciso, praticamente sotto c'è la scala del power, deve rimanere tra il 7 e il 9 e si è a posto. Corrispondenti a quanti watt? Più o meno di portante muta intorno ai 35-40 watt. Ho capito, sì, come praticamente quando lo metto alto risulta così. Io adesso lo sto usando a 15, Claudio, perché in città mi sembra esagerato mettere 40. Va benissimo, io ho il 430 che questo lo spengo a 10 watt e si accende a 10 watt, perché è diverso da qui, del 430 e 440 sono quelli di 70 e 140, invece hanno un sistema freddo che devono scaldare eccetera eccetera, però vanno bene lo stesso, non c'è problema, sono fesserie, accorgimenti, una volta che uno ce l'ha poi si abitua e lo tiene così. Io ce l'ho a 10 watt, tu ce l'hai a 15, io ce l'ho a 10 watt, figurati, 10, 20 modulati, 25 modulati, avanti il doppio rumore, prendi. Poi mi dici Gianni si è arrivato la Sassari con la radio, perché si è arrivato la Sassari sicuramente mi è già passata in mano anche a me, se non era anche la mia, si è arrivata la pure, non lo so, avanti il doppio rumore. Sei di nuovo attrezzato Gianni. Ma tu pensi che il DAC me lo venda da... se glielo chiedo Walter? No. Assolutamente già. L'ho corteggiato in tutte le maniere, io se non fosse per Daniele non l'avrei avuto. L'ho corteggiato in tutte le maniere, ma cambi, l'ho fatto di tutto e di più. Capito? Ti ricordo che quella radio come prezzo, anche se dovesse dartela non trova meno di 500 euro, tu mi trovo a testa. Io addirittura volevo fare un cambio con un HF, figurati, un HF anche di buona, che poi lui c'ha, perché c'ha sia il 2 che il normale, dovevo avere il 757 GX2, il cambio non l'ha voluto, assolutamente, no. Perché, attento, lui c'ha due serie di DAC, c'è il DAC Mark 10 e il DAC Mark 5, capito? Lui c'ha sia la versione 40 canali che la versione con tre posizioni, quindi 40 più 40 più 40, ok? Poi 40 meno e 40 meno, fatelo conto, cioè io ho quello invece 40 canali più 40 canali, la versione DAC 10, Mark 10, lui c'ha il DAC Mark 5 e il DAC Mark 10, ce li ha tutti e due, quindi non credo che te le dia, capito? Perché con Daniele avevano fatto, problemi loro comunque, gli aveva dato delle radio, in cambio a dei lavori che aveva fatto Daniele, delle prestazioni di lavoro che aveva fatto Daniele, tutto qua, diciamo che le avrebbe mai date. Vedi tu, prova a contattarlo. Gianni, allora, è arrivato la Sassari o da fuori sta radio? Insomma, posso dire la Sassari, allora, C80 quello è il mio, quello è il mio, perché io ne ho venduto 4 a Sassari, uno l'avevo dato a Franco, poi gli altri, vabbè, dico Franco perché lo posso dire, non lo posso permettere, l'ho dato a Franco, poi Franco l'ha venduto ad un'altra persona che non posso dire il nome. Se tu l'hai preso qua a Sassari da una persona, insomma, di età grande, quella radio era mia, suo microfono che tu ben conosci, quando la uso in 40 metri lo sto ascoltando, ti sto memorizzando con la modulazione, perché sia 80 non esce così, nel modo più assoluto. È una radio un po' particolare, adesso dalla modulazione come stai spingendo quella radio è la mia sicuramente. Era la mia, ho messo le mani io, l'ho usata io, no? Perché sta uscendo fortissimo, la radio è molto forte, anche non gridare, perché non strappa neanche, quindi quando quelle radio non strappano c'è lo zampino di Dio Claudio sicuramente. Va bene, Marco, hai capito che radio è uguale a quella tua con la scheda di sinistra? Tipo quella che aveva Pomponio prima, che adesso va. Io esco così praticamente. La tua è leggermente più chiara, ma sai perché? Perché tu non gridi, già invece c'è una modulazione molto, molto grossa e quindi è un pochino più grossolana, però siete molto simili, va bene anche la tua, vanno molto bene quelle radio, poi sì, Antonello, poi il primo 680 che ho venduto. Avevo venduto Antonello e mi ero comprato il 430, capito? Quindi poi l'ho comprato al 3.2, non sono entrato a radioattore, lo usavo addirittura ai 6 metri, però i 6 metri c'ha 25 watt, a me ne servivano 100 perché allora gli amplificatori ancora non erano in uso, o chi ce l'aveva abusivamente. E quindi avevo comprato l'FT 920 della IAESO che aveva i 50 mega a 100 watt, però in banda laterale 50 mega va molto bene con la radio, chiaro, ci vuole l'antenna, ci vuole la direttiva, insomma ci vogliono tutte le cose per poter uscire a certi livelli, però per avere 25 watt è una radio che va bene, non ci sono problemi, capito? KP2, quella radio è di Dio Claudio. Se ti capita, fammi un colpo di telefono al numero che ti ho dato e sicuramente se mi dici dove l'hai presa ti dico che era la mia, no? non ce la sbagliare, perché la radio la conosco, è troppo compatta, capito? Troppo compatta. Allora, quella radio, se è quella che dico io, tu te ne accorgi dal piccolo di modulazione, perché tutte quelle radio, quando hanno il piccolo di modulazione, tu la metti a 20 watt, no? Adesso il piccolo di modulazione, tu quando schiacci la portante, dove arriva? E quando parli dove arriva? Abbassa la pena, stai dicendo che non c'è più 100 watt, la ISO di 940. Abbassa appena, dagli un colpettino, ma leggero con l'unghietta. Lui c'ha le manone. Le manine ce le ho io, se riesco ad andare millimetricamente. Certamente non lo devi manco toccare. È regolato così e lascialo così, se sta a toccarlo va troppo bene. Se stai sempre a toccarlo del Maider, ce lo sa Claudio, vedi, consumi tutto quanto il coso davanti, che quello ce l'ha perfetto, non è consumato. La brucia, è una papperetta, ma quella radio la brucia. Ti ho detto lo slider, cazzo, mandalo indietro, non in avanti, lo slider, quell'apparino che tu vedi si chiama slider, devi mandarlo appena indietro, non ti capisco quando parli. Oh cazzo, non lo tocca più, però non lo tocca più, senti che radio che c'hai adesso. Sì, in 50 MW, quella c'è la scheda, non va da 0 a 30 come 140, va da 0 a 50 MW, capito? Però a te non te ne importa niente perché ci vuole la patente per andare lì. Ok? Ma molto bene anche in 50 regolato il volo. Abbassa per appena il Mickey Game KP2, ma un pelino, anche quello, mettelo a fondo scala, mandalo un pelino proprio indietro, un pelino, sai cosa vuol dire pelino? Sì, adesso meglio. È un problema il parcheggio qua, perché non so proprio dove mettermi. Devi fare una preghierina prima di arrivare lì. No, io anziché la preghiera prima faccio la bestemmia dopo, capito? Ma le bestemmie non portano a niente. Tanto non c'è il parcheggio, no. Invece la preghiera te lo fa trovare. Non è così, no, non è così. Aspetta, adesso levo tutta la radio e poi se riesco a trovare il posto e faccio un tempo ci sentiamo dal fisso, dalla base. Va bene, io devo ancora mangiare comunque. E faccio muruvami. Adesso mi sa che fra poco mollo, vado a mangiare e poi va a mettere, non c'è nessuno, lo so già. E allora non mangiamo già, almeno mi richiedi, 8:30, prendi un calcio, mi guardo Juventus Milan, così mi rilascio un po', va a giocare Bocco e Corne, Bronte, già le noccioline, la birrettina, sto scherzando, no, anche io ceno adesso fra un po' lui, mi guardo un po' di calcio, poi non accendo più perché si fa tardi e domani mattina devo alzare presto, capite? Devo alzare presto. Avanti Capri 2, comunque sono contento che c'hai una di quelle radio, vanno veramente molto molto bene. Hai ascoltato il mio consiglio, le radio purtroppo da usare qua in 27 sono quelle, sì, 80, 140, il vecchio 430, il vecchio 440, vanno molto bene, ok. Ti conto che devi tenere stabile sempre la potenza e Mickey Game non lo toccare più, lascialo così, tenere stabile la potenza, perché se stai sali e scendi con la potenza, con lo slider stai attento che è molto molto delicato, non è potenziale, perché quello è uno slider che cammina dentro una guida all'interno, c'ha due filettini leggeri leggeri, se si rompe quello slider è difficile trovarlo. Da Marco lì, ti saluto perché poi non ci sentiamo, buona cena alle prossime. Non ho capito, no, Capri 2, cosa hai detto? Sì, via. Fate la brava con questa radio, quando si vendono bisogna venderle bene. Senza, chiaro che poi, come ho detto già Gianni, doppio rum, ognuno ma il prezzo di queste radio è sempre 300, 350, quindi c'è chi la vende 300, chi la vende 350, il cercante è un pochino più caro, il cercante è a livello del 440, ecco, lo scherzo in se la fanno pagare, quindi il prezzo suo è intorno alle 400 euro, 380, 400 euro, perciò anche se uno dice che la vuole Claudio, allora Claudio siccome un amico gliela do 350 euro, stai comprando bene, capito, stai comprando, ma non le regalate, io ho visto un 430 che l'ho tutto inquadrato su internet, tutto graffiato, tutto messo male, ma non si vergognano, a 500 euro, io ho comprato sì 500 euro 430 perché costa più del 440, anche se non ha la correttore, ma io ho la correttore di linea, però una radio diversa perché 440 come ricetrasmettitore se la mette in tasca e chi l'ha provata se ne è resa conto che aveva 440 e adesso c'è 430, capito? Io ne ho dato una lo stesso da riparare, l'ho data a Fabrizio, se l'ha riparata il 430 e guai a toccargliela, vanno molto molto bene, però dico non ti vergogni a mettere una radio in quelle condizioni a 500 euro, io te la do a 500 euro, se fai un amico 450 di me non posso scendere, non la vendo, perché non la vendo, mi sono disfatto del 440, mi ho tenuto il 430, immaginate quanto sono affezionato e tutte le prove che abbiamo fatto per poter fare una vendita del genere, ma dico, però te la do a posto, te la do nuova, senza un graffio, cazzo questa, doppio rum, se la vedevi, manco 100 euro le davi tu. No, non era proprio sono un uomo, ce lo sai come ti sono sentito, sono buio, pure spolverate, io certe radio manco le guardo, cara. Vabbè, comunque, c'è chi si accontenta, magari se ne verniccia, però pagano quel prezzo. Una cosa solo devo dirti, capito, è l'unica cosa che sbagliate è prendere 4,40, quello non l'avrei venduto. Lei ha anche svenuto, va. Mi ascolta KP2, attento Gianni, KP2 se mi ascolti. velocità del caraggio. Ciao Alessandro, buonasera. Registrato, allora Gianni KP2, tu mi arrivi Santiago 7 e mezzo, non so perché, l'apparato è un 140. È tolto. Allora, zona Luna e Sole bassa, tra Cappuccino e Luna e Sole a Sassari. Vabbè, speravo fosse più alto il segnale, conta che io ho un'antenna giocattolo, un'antenna mezz'onda raccorciata, quindi non è una mantova, se avessi una mantova arrivesti senz'altro meglio. Vado a parcheggiare, gente, QRT, dai, va bene così, riprendi la micro di Porto Torres. Ok, buonasera circolare a tutti, della ruota. Mi sembra aver sentito che c'è Gianni Caprillo, però da parte mia è un po' negativo, non riesco diciamo a tirarlo fuori. Ok, siccome ho messo tutto in linea qua, volevo vedere un attimino se è alla normalità. Ciao Tigre, buonasera, come sempre, ottimo per la truppa, 9:10, 9:08, picco massimo di modulazione, radio splendida, fortissima, la grande sa. Ok, perfetto, va bene, dai, no, ho messo un po' tutto in linea, ho controllato tutto, diciamo che ho fatto una piccola revisione, tutto lì, ok. Però non mi arriva Gianni Caprillo, non so se lui mi riesce a tirarmi fuori, lo saluto ugualmente, ciao Gianni. Oh, ascolta me, Gianni Caprillo, allora, guarda che il C80, a differenza del 140, c'è un amplificatore d'antenna, perché saranno dei segnali troppo alti rispetto a quelli che danno a te, ok? Allora, guarda dove c'è scritto preamplificatore, cioè un tantino dove c'è scritto preamplificatore, disinseriscilo, toglilo fuori. Non c'è niente in trasmissione, la ricezione, guarda quando sto parlando io, c'hai un tastino grigio piccolino che c'è scritto pre, ok, preamplificatore d'antenna, sotto, in basso, verso la tua sinistra, va bene, quello inserito e disinserito. Si abbassa il segnale, non la modulazione, è impossibile che si abbassi la modulazione. Ecco, quello devi tenere disinserito, perché se tu lo tieni inserito, aumenta il segnale e non corrisponde a quello che danno a te. Perché se tu dai 9,20 e quello aumenta del 20 dB, hai capito, è tanto. Quindi se lui ti dà 7,5, magari lui ti arriva a 9, ci siamo, ma se tu le dai 9,20 e lui ti dà 7,5, non mi quadrano più i conti. Come hai detto appunto a Sandro, che lui non ti ascolta, te lo ascolti 9,10, c'è qualcosa che non va. Ok, quello inseriscilo, se magari hai dei segnali bassi, che però ricevi, allora lo tieni inserito e ti aumenta. Attenzione che aumenta anche il QRM, però, perché purtroppo i preamplificatori di quella radio lì sono preamplificatori che servono o non servono, ok, non sono come quelli, insomma, degli HF un po' più, quelli digitali, ecco, che aumentano solo il segnale, non aumentano il QRM, quindi tienilo disinserito, ok, e mi dici quanto è il mio segnale, così ti dico se è allineato anche bene con la radio, perché col preamplificatore d'antenna aumenta di 20 dB, ok, esattamente di 18,5 dB. Dimmi allora, disinserito quanto ti arrivo e inserito quanto ti arrivo. Scusate un secondo, poi vi tiro anche il microfono dove ero. Allora, 9,15 e inserito, arrivi 9,20, va bene. 9,15, quando lo inserisco? inserisci, mentre io sto parlando, prova a inserirlo. Dimmi quanto aumenta, da 9,15 a quanto? Non ci siamo, quello da 15 deve passare almeno a 30, 32, 35, non ci siamo, ok, non ci siamo, va bene, poi lo vediamo meglio, adesso non voglio monopolizzare, ma non ci siamo già, c'è 80 e il stacco dell'antenna è da 20 dB, 18,5 dB, quindi 9,15 dovrei andare intorno ai 9,32-9,35 sul ballato. Avanti dottor Rumbe, poi vai per Sandro. Sandro, tu mi dici se stai usando l'Omega, certo, c'è una radio favolosa, avanti Gian. Un attimino Claudio, che sto facendo una foto, un secondo solo. Ok, dai, riprendo io, mentre Gianni fa le sue foto. Ok, adesso ho inserito l'amplificatore antenna e sono riuscito, diciamo, a tirare fuori a Gianni Capri 2. Ciao Gianni, buonasera. Riesco a tirarti fuori logicamente con un po' di mobilità dietro, comunque diciamo riesco bene o male, diciamo, a tirarti fuori. Perfetto, va benissimo, sì, si conferma Claudio. Solito cavallo di battaglia, dai. Sì, era cavallo di battaglia quella. Quella è una radio, ne parlavo l'altro giorno proprio con Marcolino, che lui le piacciono la serie di Magnum, ho detto guarda, della serie Magnum, ho detto ancora se non piace per nessuno, il Magnum S9, anche il modello nuovo, quello c'è già, è bellissimo, ma la modulazione dell'Omega è favolosa, ora se capita che senti a Sandro, ascolta bene la modulazione, poi me ne dai la risposta, fortissima, bella, forte, compatta, c'è cioè questi medio-bassi che sono una cosa pazzesca, veramente, ma l'ho riconosciuta subito, non te ne disfare mai di quella radio, non te ne disfare mai, perché riesci a farla andare in una maniera pazzesca, veramente fortissima, è una delle migliori radio con tutta la mia esperienza, la mia... Sai, io sono molto pignolo quando vedo un giro di radio, perché a me non c'è niente, se una perché arriva alle 9:20, arriva 9, ma mi dà questa sensazione bella di ascolto, per me è molto importante, io mi piace ascoltare le belle radio. E questa credo che in tutte quelle che io ho ascoltato e ascolto è la migliore in assoluto, perché è di una corposità micidiale. Lo senti bene Gianni Capri 2 a Sandro, tu di radio? Fate segnare che non ti ha tutti nulla, lo senti bene di radio? Andando sull'orto, no, ma sull'orto è il mio segnale. Senti segnale 8, Sandro è un buonissimo segnale per la tua zona, ti ricordo che Sandro è in zona di mare a poco poco, se non è dietro l'angolo, tu sei a Muros, quando arrivi 9,9+20 abbondante, ma sei davanti a me, io sono davanti a te qua, non abbiamo stacco l'uno con l'altro, perché io supero tranquillamente la zona di Scala di Ciocca, quindi sei davanti a me. Ma Sandro, attenzione che è molto distante, segnale 8 è un ottimo segnale, se senza l'amplificatore antenna lo stai sentendo, segnale 8 è un ottimo segnale, quindi la radio va bene, va benissimo, non ci sono problemi. E poi Sandro ti ascolti basso rispetto a come lo senti tu, questa è una questione diversa, perché evidentemente tu verso di lui essendo in alto riesci a riceverlo bene, hai meno ostacolo, lui essendo più basso, arrivare in salita da te c'è qualche ostacolo, ma il segnale è fortissimo, va bene, segnale 8, ultima radio, ultima segnale. Dottor Rumi, cosa stai fotografando? Le manecce? No, la stazione. Ok, aspetta un attimino qua, siccome ho il Mikey Gain a 3, non lo metto a manetta perché magari si porta via tutto quello del QRA. Vediamo un attimino se migliora, dovrebbe migliorare qualcosa, eh? Ok, adesso ho portato, diciamo, non è tutto aperto, è quasi tutto aperto, quasi a un quarto. Vediamo, posso immaginavo, dai, ancora immaginavo. Diciamo che adesso è quasi tutto aperto, non lo uso quasi mai perché lo uso quasi a metà o meno di metà. A metà è quasi meno di metà. Ok, questo è un effetto, ma farà schifo. Tocca nulla, Sabri, ti prego, cazzo, non toccare niente, buona la gomma intera che è una bomba, lascia stare gli effetti, non ti interessa gli effetti, hai una radio che non ce n'è per nessuno, anche se la usi a tre, è sempre bella forte, rimbombante, chiara, potente, non ho niente da dirti, da 1 a 10 ti do 20, cosa vuoi ti dica? Lasciala stare com'è che è perfetta. Ok, dai, va bene, no, adesso no. Però da parecchio che non la mettevo sotto. Va bene, dai, c'è ancora l'avanguardia. Va benissimo. Se dico così io penso che non si possa uscire, guarda. Non si può uscire perché, a prescindere dal fatto che quella è già una radio di grandi prestazioni, perché appartiene alla famiglia Magnum, quindi tanto di cappello, ma la porti molto bene tu con la tua tonalità di voce, capito? Quindi è chiaro che quando uno ha un abbinamento di questo livello riesce ad avere prestazioni molto molto alte, quindi io ti consiglio di lasciarla così perché vai benissimo, benissimo. Stai facendo le foto, dottor Rutte, cosa vuoi fare? Il giornale vuoi uscire? Dottor Rutte sta facendo le fotografie. Io invece sto cercando uno, un bravo fotografo che mi fa la foto nuova qua, con adesso tutto a posto, però inserisca su cuoreretta.com perché se la vecchia io non vedo il buono, non so cosa dobbiamo fare, forse ci vuole una digitale, qualcosa del genere, non lo so. Ok, dai signori, io vi saluto che stavo spazzolando, giusto, vi ho sentito giusto, però sono entrato per i saluti, dai. Vi lascio che ho qualche cosettina ancora da ultimare per metterci in linea per l'inizio della giornata di domani. Ciao Carlo, mi sentito, buon proseguo di serata alle prossimine. Ciao anche a te Gianni Capri 2 alle prossimine. Ciao doppio Rum, se sei in ascolto, grande Claudio. Ciao Sandri, già ci sentiamo al telefono, ovviamente ti chiamo domani, ricordati quel numero nuovo, non mi chiamare all'altro perché se è spento non ti posso rispondere. Va bene, allora microfono per Capri 2, per i saluti a Sandro, poi anche io ti lascio perché è pronto la cena, mi guardo un po' di sport e poi ce ne andiamo a nanna e domani si inizia a combattere tutta la settimana lunga. Ok, a te Capri 2 cambio. Sotto la C, l'hai messo? Ecco, lascialo stare così, almeno non si gridi, non sfasci le orecchie a nessuno. Prova a parlare. Che va bene così, va bene. Per me va bene così. Marco, per te va bene. Bene, bene. Anch'io l'ho regolato sotto la C e la posizione è ottimale, capito? Sto parlando da una distanza di 25 centimetri dal microfono. Comunque tu arrivi 7,5, però con picchi fino a 9, ricordati. Vedi un po', canale 2 AM, canale 2, attenzione Gianni KT2, guarda la portante muta, ecco, e guarda la modulazione, vedi un po', 1, 2, 3, 4. Claudio. Vedi che è tornata la normalità, ci aveva applicato la C, Gianni KT2, ci aveva applicato inserito, perché il C80, a differenza del 140, ci aveva applicato l'antenna. Capito, che serve moltissimo per la banda dei semetri, perché i semetri sono un po' tosti, e quindi la C80 gli hanno messo il preferito dell'antenna, che è una cosa molto molto... Vabbè. Ok, Mila sta dicendo, no, vabbè, ok, caro Giulio, stiamo prendendo un albero, vabbè, io vi lascio, sono già demoralizzato. Avanti Gianni, dottor Rubinini. Claudio. Sì. Modulo va a 15, ecco qua, va bene, e lo lascio a pochi watt perché in città tanto non c'è bisogno di metterne 40, capito? Avanti Gianni, lo stai chiudendo? No, ciao Claudio, dai, ci sentiamo, buona serata e buona carica. Avanti Caprillo per i saluti, se non l'hai fatto e per il primo, dai. mettiamo in casa un attimino, eh? E allora Gianni, che ti è successo? Come mai tutto questo tempo di assenza? Ciao Gianni, tanti saluti da Diu. Ciao, ciao. Ben sentita anche a te, dai. Cordialità. Ogni tanto entra a farti sentire. Se mi procurate un'interlocutrice femminuccia, grande quanto me, allora sì. Aspetta, che voce che ti fa questo apparecchio? Scommetto che è un apparecchio che conosco. Marco è molto soddisfatto, è molto carino, è molto proprio è perfetto, dicono. Quindi lui è molto soddisfatto di avertelo comprato. Vabbè, io non detto a casa non le tengo. La tengo tutta così la roba, mi ho mandato adesso la fotografia a Claudio della mia stazione per fargli vedere come l'avevo sistemata. E gli è piaciuto anche a lui. No, non ne ho gli apparecchi né graffiati né difettosi. Se una cosa se no deve funzionare, se no non mi piace più già. Ah, meno male, allora sei come Marco, perché queste cose elettroniche le tiene molto bene e di conseguenza quando vende Marco qualcosa vuol dire che è veramente nuovo ed è consigliabile, insomma, l'acquisto proprio perché è tenuto bene da lui. Una volta che le vendo me ne pento soprattutto. E poi me ne sarei guardato bene, di aver fregato una persona che conoscevo la madre da una vita, ma immagino, anche lui lo conoscevo già da tanto, quindi non sono una persona, ma è un apparecchio allineato, tutto perfetto, in capo poi già si sente. Avanti di nuovo, e fai girare Marco, che fra poco se mi tocca vado a cenare. Allora, io sono Liu, saluto anche Gianni Di Muro, Scape 2, anche se non lo conosco, saluti da Liu. Buonasera, Barracuda. Antonello, buonasera anche a te, a buon'ora. Emi, ho acceso 10 minuti, poi anche qui tra un po', tra 10 minuti, è pronto dunque, e poi riattacco di nuovo. Vai a 10. Anni. Ehi, ehi, sì, sì, ho capito, Antonio, scusa. E comunque, c'è stato qualcuno che ti passa al 10, non ho capito se era Luca. A Luca, tu sì. Ma te ne stato di nuovo, cazzo, mi ha fatto. Davvero? Ma tu non devi dire che la sento io, No, per me non stai rescando. Andiamo a 10, Antonio. Buonasera a tutti. No, stavo chiamando a Gianni Capri 2 a Polacco. Buonasera, Gianni. Era ora di rientrare. Un attimo che qui si reca per me. Se ha voglia già, forte, forte e chiaro, bello, bello, bello. Devo pagare 2 euro per ogni ricarica. Anzi, volevo dire, guarda che l'altro telefono è senza credito, è proprio a zero. Io mi sono portato un altro telefono, un telefonino che ha un bel credito. No, un bel no, ma ha più credito, dai. E l'altro è spento addirittura, ho trovato spento ieri. Questo quello di numero, ora adesso se ne è 4 o 5. Io guardavo perciò c'è credito e ci sono chiamate, un bel, ne avrò 300 minuti. Vabbè, infatti mi sono dimenticato, vedi, di darti anche i soldi delle ricariche, scusa. Anche se hai fatto un unico pagamento, almeno io la ricarica te la dovevo dare, scusa. Aspetta, non vorrei monopolizzare. Luca, passa sul 20 un attimino. Allora io mangio adesso, poi te ne parliamo, tu mangia e ci sentiamo dopo. Vabbè, dai, sto andando a fare carica anche io, dai, ci sentiamo dopo, ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Luca, Condor e via dicendo, dai, se ha dimenticato qualcuno chiedo venia e saluto di nuovo, ciao ciao. Va bene Gianni, buona cena, ci sentiamo, avanti KP2, KP2 per i saluti. Ciao Gianni, buona cena, KP2 avanti. Antonello, avanti per i saluti. Yeah, ciao, appetito, se coincide a dopo, dai, sempre sul canale 10. Va bene, tutti a mangiare sono andati, forse è andato via anche Gianni Capridue, dai. No, non credo, non ho detto niente, sicuramente si è spostato dalla stazione. Va bene, vado anche a fare carica, ci sentiamo dopo se entrate sul 10, lo lascio acceso, dai, buon appetito a tutti. Perfetto, facciamo così, d'accordo, a dopo, appetito a tutti. Allora, Gianni Capridue, che in quel Rich. Ciao Antonello Baracuda, buona cena. Ciao Gianni, vabbè, l'ho già salutato. Luca, io vabbè, mi assento, vado a vedere un po' di roba in TV. Non riprenderò, per tutti, non riprenderò stasera, riprenderò domani, ok? Avanti Luca. Questo non poi l'ascolto. Sto facendo. Sto cercando di usare un traduttore da italiano a spagnolo, mamma mia, un casino. Molte volte trasmette, cioè, fa la traduzione, molte volte non si impara. Ma poi fammi sapere, ciao, ciao a tutti. Ciao Luca. Cosa che stavo dicendo a Marco Conte? Che non riprende? Come fate adesso? Antonio Conte. Non ci lasciare Marco Conte, ti prego, non ci lasciare. Ehi, guarda, mi sentita mamma, non è Luca, è Antonio, Chi è Antonio? Antonio, Ehi. Signora, buonasera. Mi ha risentita dopo 20, 25 anni, ma più di lì, non più hanno mai. Sì Antonio, col nome di Liu, nell'anno di grazia credo 84-86, ovvero Marcolino? Allora siamo entrati nell'84, sì. Niente meno, e mi ricordo di te perché anche tu sei incappato in Paoletto come me e Marco quando siamo entrati, e quindi ti raggirava un po', mi ricordo come raggirava anche Marcolino. Bei ricordi Grodde, bei ricordi veramente allora, e mi sono anche divertita, ma perché non ampliate la frequenza come allora? Adesso tutti vanno al computer, no, è molto più bello il baracchino col fascino del mic, quindi è un'altra cosa. Questo mi trovi pienamente concorde, assolutamente bei ricordi, bei tempi, anche se a me è costato un anno scolastico, perché il primo anno mi hanno bocciato perché a 14 anni in prima geometri per colpa, per merito del baracchino. Però ti dicevo, assolutamente ricordo il tuo nominativo, è che allora non lo associavo almeno, non so se poi sia questa la natura del tuo nick, vedi, sto già utilizzando un termine che non si rapporta, diciamo, al baracchino. Dovrebbe essere tratto dalla Turandot. È vero, io no, di tu parla piano. Piano, mi dice Marco di parlare piano. E mi ricordo che io dicevo appunto, qualcuno diceva del mio nominativo Liu, che se fosse quello della cera Liu, la famosa cera Liu, che allora la televisione diciamo propagandava, e invece io ho detto no, Liu è quella della Turandot, anche se io poi mi ero precedentemente dato il nome di Valchiria, però Valchiria non lo capivano bene ed era troppo lungo, allora ho ho deciso definitivamente per di U. E adesso, rientrando un po' così per salutarvi, per ricordarvi che sono una vecchia CD, vi dico che il mio nome, il mio nominativo era Liu, e modulavo allora con Rosetta, eccetera, le uniche femminucce di allora. Però adesso no, qua mi si permetta una cosa, le uniche femminucce serie di allora, ecco, e diciamo sì, avevo trovato un po' di gente anche femminucce, però adesso vedo che siete tutti maschietti e mi vergogno un po' di modulare. Devo dire che avevo proprietà, insomma, avevo cioè estroversione adatta per diciamo la 27, e Marcolino allora ne aveva meno estroversione. No, Marcolino. Marcolino sì, allora modulava poco, però adesso mi rammarico per voi, perché dovreste essere moltissimi, perché è bello il baracchino, cioè è una cosetta carina, simpatica, solo che vedo che vanno tutti al computer e non mi piace per niente. Il problema è che ti stai già mettendo in una condizione un po' particolare, perché dal tuo linguaggio aulico fai capire la natura della tua cultura, e questo soprattutto in certi ambienti ti fa sì che vieni in qualche modo messa da parte, oltre che per il sesso, ma anche per una cultura, perché sai, molto spesso disquisire con una persona che utilizza un linguaggio così erudita non è sempre facile per molti, quindi dovresti un attimino mettere le trattature. Forse hai ragione, però sai, io ho avuto modo a che fare, modo di avere alunni di tutti i generi, perché ho insegnato al corso anche degli adulti lavoratori, e quindi di persone che avevano lasciato lo studio da tanto tempo, però mi sono trovata sempre bene, quindi io non mi formalizzo, diciamo, se sono gli altri che si formalizzano è peccato, un peccato, però io non mi formalizzo e mi è sempre piaciuto il baracchino. Assolutamente, assolutamente sì, guarda, secondo me esprime appieno quella che è la libertà di parola, anche perché tutto è controllabile il telefonino, perché sta che nei ponti radio siamo fregati, è controllabile perché comunque qualcuno te lo può clonare, è controllabile per tutta una serie di cose, quindi la vera libertà secondo me rimarrà sempre la CB, è per quello che io sono follemente innamorato, posso dirlo, di questa frequenza, benché a seguito del conseguimento di una partenza radioamatoriale mi abbiano già messo all'indice come persona non degna di far parte della 27, ma come diceva uno che aveva così gli attributi, io me ne frego, quindi continuo. Ho un piacevole ricordo tuo invece di quando, siccome avevi qualcuno che ti chiedeva aiuto scolastico, se non ricordo male, e a un certo punto un giorno disperata tu hai detto non basta, rientro dal lavoro e dopodiché devo lavorare anche al baracchino, l'avevi pregato di smettere questa cosa, perché questa cosa l'aveva presa a vizio, ogni sera di chiederti aiuto per fare i compiti, se non sbaglio. Però Antonio, io questo fatto non lo ricordo, nemmeno io e nemmeno Marco se lo ricorda, che non avessero cambiato con qualcun altro, qualcun altro che magari ugualmente insegnava. Comunque a me il baracchino, sai perché piace molto? Perché non devi esulare dal fascino del mic, Antonio, perché praticamente mentre nel computer devi usare il metodo del dattilo scritto, diciamo, della dattilografia, che a me non piace per niente, è molto migliore il mic, è di gran lunga superiore, perché puoi modulare a voce premendo semplicemente un tasto, ma poi qui procurati tanti bei mic con amplificazione o meno amplificazione, effetto presenza, eccetera. Cioè il fascino del mic io non l'ho mai tralasciato, abbandonato, e soprattutto mi piace anche cambiare mic, perché ogni modulazione ha il suo fascino. Assolutamente sì, il problema sai qual è, però? Che molto spesso, cioè, stimola al contrario del computer quella che è la fantasia, o meglio, comunque ti dà quantomeno un'imboccata della persona che è di fronte, perché molto spesso, come è capitato varie volte a Luca, lui credeva di chattare con delle ragazze e poi si è ritrovato il mandingo dall'altra parte, mentre invece quantomeno al baracchino, diciamo che satti, facendomi passare il termine, uno dei sensi che è l'udito, nel senso che quantomeno ti fai un'idea e ti mette qualche curiosità di sapere chi c'è dall'altra parte, poi al 90% incontri la persona ed è completamente diversa da come te la immaginavi, soprattutto per quanto riguarda la voce, e soprattutto ti mette nella condizione di essere educato, perché quantomeno devi far parlare, si parla una alla volta, a meno che non ci si sovramuderi, ma comunque sempre una alla volta si deve parlare e ascoltare. Ti lancio il mic, cara Diu, opera di, vediamo se lo sai. Ok, io ne approfitto appunto per salutarti, vabbè, anche se mi piace il tuo nome, è vero, anche Antonio, mi piace molto, diciamo che io sono stata affascinata da certe voci, anche femminili, nell'anno 84, e indovina da chi, non so se te la ricordi, Luce del Mattino, aveva un fascino tale che tutti gli uomini cadevano ai suoi piedi, te lo ricordi? Luce del Mattino, aspetta un attimo, io credo di averla conosciuta anche da poco questa persona, Luce del Mattino, sì. Però adesso non riesco a associare il nominativo alla persona, ma credo che fosse una ragazza, è possibile, una ragazza abbastanza giovane. Il fascino che aveva questa voce era tale che uno pensava a una magnifica ragazza eterea, giovane, bella, eclatante, un fascino particolare, una maga, una Circe. Beh, poi avevo saputo già da allora che era una vecchietta, poverina, una vecchietta come sono io adesso, e che aveva una magnifica voce ammariante. Tu hai presente il fascino del canto delle sirene? Ecco, Luce aveva allora il fascino di un canto delle sirene, e molti Ulisse ci sono cascati. E sono diventati maiali, no, così che diventa Ulisse, ammagliato dal canto delle sirene, no? Quando ha cercato di sorpassare le corone d'Ercole, se non sbaglio. Vabbè, è un'altra storia questa, lei. E molti ci sono caduti, vabbè, oddio, ci sono caduti nel senso che poi sono andati a conoscerle e sono rimasti altamente delusi. E ma infatti, come diceva il padre di un amico, mai mettersi nella condizione di conoscere le persone in verticale. La bellezza della civile è quello proprio di parlare e di evitare poi un incontro in verticale, perché rimane il 90% deluso. Ovviamente ci sono i casi particolari come il tuo, ma ripeto, per il 90% poi vanno a compensare le persone come tuo figlio e come Luca, per carità. Se avete mai per i saluti, comunque ti saluto, buon proseguimento di serata e buon 144 quando lo farai. Avanti. Io faccio quello che ti saluto, ed effettivamente è meglio conoscersi tramite baracchino e modulare anni e anni senza necessariamente dover ricorrere alla verticale. E comunque questo è stato simpatico, io sono praticamente rientrata stasera per un tempo più lungo, altrimenti salutavo soltanto. Antonio, ti saluto, faccio quello che vi lascio ai vostri discorsi e eventualmente da domani, se Marco non rientra. Questo è, ti ringrazio, tutto ricambiato al 100, di nuovo 7-3 e al più presto. Luca, visto che si parla di maniaci e di persone che usano il computer, entra, vieni avanti, Luca, vieni. No, voi. Messa l'aria, guarda che diventi cieco. Usa il computer, perché sono come te vado a vestire porno. Oh yeah, il coraggio ci vuole, la gente, questi qua guadagnano così come persone come te, smettila di guardare quelle cose di salute. Marcolino il Condors. Ciao Antonio, ogni tanto le piace entrare e salutare con i vecchi tempi. Se ci fosse, ripeto, qualche donna in più, magari un po' della sua età, entrerebbe più spesso, ma così chi trova, chi trova. Guarda, era capitato un po' di tempo fa proprio, aspetta, allora ho iniziato a modulare lo stesso la mia 25, si dice, o la mia 50, 25, più vicino ai 50, adesso che 25. Il problema è che al pari suo non ha trovato il giusto udibrio e quindi di conseguenza ha evitato di continuare. Ma ripeto, ci sono state altre due o tre ragazze che volevano entrare, però poi Niente, riprendi e dimmi chi è rimasto in ruota, perché io sono entrato anche senza breccare. Riprendi. Allora, Antonio, se ne sono andati tutti. Gianni Capridue in quel X ha detto. Gianni Oppiruma a mangiare. Antonello Baracuda è andato a mangiare. Quindi siamo io, tu e Luca. Anzi, siete tu e Luca perché io sto andando a lavorare nella TV. Oggi c'è Dottor Hauser, Nick and Tuck e Shameless, e non me li posso perdere. Mi raccomando, se no ti faccio il rincoglionimento. Allora, saluto Gianni Capridue che sei in quel Rix, che da un po' di tempo che non lo vedo, però per i miei motivi personali dovuti a varie vicissitudini non ho avuto modo poi di ricontattarlo, ci saremmo dovuti vedere o comunque risentire. E basta così. E Luca, ma lo sai che quella cosa non mi sta trasmettendo? Tu secondo me hai problemi, io ti faccio vedere qualcosa che ti trasmette, l'hai resettato? Negativo, l'ho resettato più di una volta, il problema è che stavo parlando ieri con Vittorio, che sicuramente qualcosa ne capisce più di te, mi ha detto che il problema è che se lo tieni importante per un certo numero di minuti, tende ad andare in autoprotezione e scende dal wattaggio che ha di solito in trasmissione a un wattaggio minimo di 200 mW, tale da non alzare neanche l'ago dello smitter, però continua a trasmettere, però non poi, perché si brucia un fusibile di protezione, cambiate il quale o ponticellate il quale e ritorna ad essere a ritrasmettere come prima. Ci mancherebbe vito di un tecnico, mi stavo ascoltando ieri, sono io che potevo entrare, si è spento, lo sto caricando. Allora, quello che ho io, questo è un volto nuovo, il mio è un po' usurato, no? Come tastiera, praticamente lo sai, no? Mi manda dual band, giusto? Allora ci andavo sotto, non è importante, invece sopra non è importante. Quando io l'ho resettato, poi ho disattivato i tuni, eccetera, che erano fastidiosi, no? Gli ho portato qualcosina, perché è difficile, tu, credi, è difficile. Trasmette sia giù che su, anche se avevo tutti i LED, non ci vuole trasmettere al 100%, pure io, passaggi giù non è fatto perché non ci vuole trasmissione. Sì, no, ma evidentemente avevano il problema già da prima. Ci scusi, Dino. Cosa hai detto? Cosa hai detto? Evidentemente avevano già problemi prima, avevano problemi prima. Non lo so, io qua, non posso dire, l'unica cosa è la mattina che duri molto, vabbè, da 3 anni ferma. Comunque, già funziona, funziona, guarda, prima il problema è che l'FM non peggiava, da prima l'ho resettato e a posto. Non è spento, lo facevano poco, quasi niente. Io ti stavo ascoltando, era un piacere ascoltarvi, e poi mi sono addormentato. Scusami un attimino, sto finendo di fare una cosa, poi rientro, se sei in quel Rix ti richiamo fra un attimo. Chi c'è rimasto qua? In quel Rix un attimo. Vabbè, quel Rix per me è effettivo, ciao Luca, ciao Antonio. Ciao Marcolino. Marcolino, alla prossima. Ehi, ti volevo dire Luca, che io al momento, siccome ho speso tutto per la radio, ho 0 miante nella carta, dovremmo fare una misera ricarica addirittura di 5 euro, più 2 di ricarica, mi vergogno quasi di andare. Lo so. Ci mancherebbe, ma una volta di ora voluti, scusa, infatti sono in debito ancora. Ascolta Luca, ti sei accertato che il difetto sia dai tasti che devi ordinare, questi tasti che ho visto, e che non sia una parte elettronica? No, e se poi ordini i tasti e praticamente non sono quelli della parte elettronica? No. Ma no cosa? Che non hai controllato oppure sei sicuro che sono i tasti? No, il problema è io li ho bloccati, se va a faccia c'è anche l'autocastrone. comunque ricordati che se riesci a fare la prova lo controlli e vedi se i comandi sono rotti, i tasti o quello che è, perché andare alla cieca non va nemmeno bene, Luca. Vabbè, comunque non lo so, perché se poi un'altra cosa, una parte dei tronchi, è un casino, è inutile cambiare i tasti inutilmente. Ah, ricordati che ci sono solo due pezzi disponibili, vedi quei tasti, quel kit di tasti, sono solo due disponibili. Vabbè. Il problema, quando ci sentiamo comunque, va bene a mangiare, ora andare al TV, non è un problema, tranquillo, sono qua io. Se puoi, se no vedo di... ci trovo la mia posta qui, vediamo un po' cosa riesco a fare, perché sei sicuro che faccio un casino? Già, la prima volta, che praticamente il pagamento l'avevo fatto, poi l'avevo annullato, perché non andava bene, la posta qui, qua e là, ma vaffanculo. Lo so Luca, però io te l'ho spiegato esattamente cosa devi fare. Vai alla Monte dei Paschi di Siena, in Piazza Italia, chiedi la MS Spider, che potrebbe essere anche gratis, io non mi ricordo se all'inizio paghi 10 euro o se è gratis. Quella, secondo me è migliore la PostePay, a me la PostePay non mi è mai piaciuta, è strana, e inoltre non la puoi usare come bancomat, mi pare. Le carte di credito sono più versatili, secondo me, a mio giudizio, è Luca. Con quella tu poi ti iscrivi a PayPal, se già non l'hai fatto. Una volta che sei iscritto, cerchi la voce, non inserisci carta, tipo registra carta, metti i dati della carta di credito, cioè i numeri di davanti più il numeretto di due cifre dietro, no, quello speciale, ed è fatta. E tu vai a pagare con PayPal e PayPal prende il credito dalla carta di credito. È semplicissimo, Luca, è di una semplicità estrema. Va bene Luca, ok, buonanotte, dai, ci sentiamo domani. Questa notte te l'ho detto che mi guardo un po' di TV, dai.